Friuli nel mondo, 96esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni friulane d'oggi. Vogliate oggi ascoltare, cari amici lontani, un gruppo di nuove canzoni friulane eseguite in occasione della Sagra della Canzone di Pradamano e che giovani autori nostrani hanno presentato su testi friulani al numeroso pubblico accorso nel parco della Villa Giacomelli. Le composizioni, interpretate da giovani dilettanti, hanno inteso accostarsi il più possibile con nuove forme musicali all'ambiente e alla tradizione melodica del Friuli. Siamo lieti, a questo proposito, di riportare il giudizio del maestro Concina, autore della famosa canzone Vola Colomba, sulla validità del Festival di Pradamano. Ma credete che un festival come questo commuove? Commuove per la bellezza delle canzoni e commuove per la bellezza del pubblico che c'è. È una cosa genuina, si ritorna alle origini. E questo fa piacere al mio cuore, dovrebbe far piacere al cuore di tutta Italia. Ma purtroppo non sono qua che sentono. Avrebbero bisogno di vedere tutti gli italiani un festival come questo. Di Braidotti e Michelutti ascoltate La Vostan, interpretata da Maria Di Leno. Stop. Luigino Biancuzzi vi canta ora Benedette Gioventut di Ferruglio e Vogrich. Voce splendide serale, tor di noce tante pas, a sinti per aulis dolces, anche il gri ascolte alta. Ogni tanto, lis lusignutis, passin donge culoso. Io di che io ti bussi ce diranno fra di loro cu splendor che a fas la luna puesti alati in fondo al volo come te non de nessuno e nessun come nodo l'usignore altiante altiante par noi altri le vignù col sociant al parche al diso benedette gioventù. Grazie. Cu splendor che a fas la luna questi alati in fondo come te, non de nessuno e nessun come nodo. L'usignore, altiante, altiante, pare noi altri le vignut, cul sociant, al par che al dì. Benedette gioventù. Maio Mame di Ferruglio e Michelutti è la canzone che Ulrica Calvori interpreta con particolare brio. Lame mame si lamente, si inveleni e piarti flat, non può dim fa la polente, un sunai ti è mia mola. Maio mame, maio mame, mi vergogna fa fa su, son più spieri su. Rosutis e bellissimo rosut, paullin dis che non è ore di pensar. Si ti dis in man di more, non sta nance a Vogliate infine ascoltare Albionte Tessarin che vi canta La Iu sul Mar di Sebastianutto Politi. Stelle di me Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 96esima trasmissione a cura di Ermete Pelizzari.